carcere confine da bastone. Non hanno meno ma da comunista la convinzione, la convinzione di una nuova era che al mondo porterà la redenzione. Lo porta scritto sulla sua bandiera rivoluzione. E se la polizia se la sen perde, e se la polizia se la sen pase, rispondiremo dalle barricate piombo per piombo. E si caremo in un furor di gloria, saciando a borghese e capitalismo, da sangue nascerà la nuova storia del comunismo. Da sangue nascerà la nuova storia del comunismo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la nacerá la nueva historia del comunismo. Nadie me conoce, yo muevo los hilos. ¡Fátalo! Soy el que controla. Defendiendo mis principios, mis privilegios. ¡Gloria al Señor! Me hace reverencia todo Jesucristo. ¡Atalayo! Vienen a mi iglesia hasta los obispos. ¡Atalayo! Parlamentos, periodistas, son mis putas de servicio. Yo resulto la conciencia, les doy cuerda y a correr. ¡Ay! Allora, le 10 e 18, inizio sigla della trasmissione, oggi un pochino più lungo del solito. Comunque, questa è Radio Euskadi, come ogni lunedì a quest'ora la musica, la politica, la cultura, le lotte dal Paese Basco e non solo. E noi andiamo rapidamente a cominciare, visto che stamani i tempi sono un pochino contingentati, vedendo quello di cui ci andremo a occupare quest'oggi. Intanto, prima di tutto, un'errata corrige che vale soprattutto per il gruppo d'ascolto di Barcellona e dei paesi catalani, che sappiamo essere piuttosto preciso, e quindi ce ne scusiamo in anticipo. Lunedì avevamo annunciato che quest'oggi ci saremmo occupati dell'anniversario del cosiddetto movimento degli Indignados e delle Indignadas, movimento che nello stato spagnolo spesso viene sintetizzato con il nome di 15 di marzo, avevamo detto la scorsa settimana, e quindi eravamo in pieno anniversario. In realtà la M non sta per marzo ma sta per maggio, quindi la trasmissione in proposito è rinviata a fra un paio di mesi scarsi. Ancora una scusa per l'errata valutazione, speriamo ci perdonerete. Che bello, che bello, che bello. Quest'oggi saranno due invece gli argomenti sul piatto. Riprenderemo in qualche modo quanto affrontato la scorsa settimana. La scorsa settimana abbiamo raccontato una vita piuttosto particolare, quella di una ragazza britannica di ottima famiglia e ottimi studi, che a un certo punto della sua vita ha deciso di mollare tutto e diventare una militante per l'indipendenza e il socialismo in Irlanda del Nord, e continua ancora oggi la sua militanza. Ed eravamo partiti da un'intervista fatta a questa compagna dal quotidiano Basco Gara, ancora dal quotidiano Gara della scorsa settimana un'intervista a un altro personaggio piuttosto particolare, Pedro Maria Solavarria Bilbao, più conosciuto come Perico Solavarria, un ex un sacerdote operaio viscaino, la cui parabola personale e politica è molto molto interessante, che ha rilasciato un'intervista a Gara la scorsa settimana. E poi parleremo di nuovi assetti radiotelevisivi nel Paese Basco, tema che ovviamente è caldo anche nel Paese Basco, non soltanto da noi. Ma cominciamo con Perico Solavarria, qualche nota biografica di questo personaggio, nato il 27 gennaio del 1930 a Portugalete, uno dei comuni che fanno parte della cintura industriale, ormai ex industriale, di Bilbao. Nasce nel 1930 a Portugalete, figlio di un minatore e di quella che oggi chiameremmo colf, ma all'epoca si chiamava semplicemente serva, in una casa aristocratica di Bilbao. Nasce nel 1930, Perico passa la guerra, tutto il periodo della guerra, da bambino in una casa che verrà bombardata più volte dall'aviazione franchista. A soli 11 anni entra nel seminario di Gordecuela, a pochi passi da Bilbao, per poi proseguire i suoi studi altrove, sempre nel Paese Basco. A 24 anni viene ordinato sacerdote cattolico, viene destinato dal arcivescovato alla parrocchia della località di L'Arboleda, una località dove era presente una miniera molto importante. Sta lì per 9 anni e poi viene trasferito a Baracaldo, altro importante comune della cintura operaia di Bilbao, tutti luoghi con una forte tradizione operaia, una grande conflittualità politica e sociale, cosa che portò Perico a sviluppare una grossa coscienza politica e sociale, e soprattutto a ampliare i propri contatti con tutto il movimento operaio che era presente nella zona della cosiddetta Marken Izquierda, ovvero sia la zona della costa sinistra del fiume di Bilbao, dove sono presenti i quartieri e i comuni più poveri e operai della Viscaglia. Perico è considerato come uno dei pionieri del movimento dei preti operai in tutto lo Stato spagnolo, non soltanto nel Paese Basco, insieme al gesuita David Armentia. È stato un impiegato della fabbrica di Bandas a Echeverri, sempre vicino a Bilbao, ed è stato protagonista di uno dei più famosi scioperi operai di tutti gli anni 60, lo sciopero di Bandas del 1967. Lui era riuscito a ottenere il permesso dalla sua diocesi di lavorare come operaio a tempo pieno, e ha lavorato come operaio semplice in tutta una serie di fabbriche e di costruzione di opere pubbliche. Fatto questo, attività di operaio che, come è successo a tante e tanti altri, gli ha fatto contrarre una serie di malattie che lo hanno portato a un'infermità respiratoria cronica. E ha cominciato giovanissimo a collaborare con numerose organizzazioni sindacali e politiche, all'inizio soltanto legali, poi anche illegali, come le prime Commissione Sobreras e poi il fronte operaio di ETA, anche se non entrò mai ufficialmente in nessuna di queste. Allo stesso tempo lavorò fianco a fianco con militanti comunisti e socialisti. La sua attività politica, a causa della sua attività politica, fu incarcerato nel carcere di Zamora, che era un carcere particolare che all'interno del regime franchista, nella Spagna franchista, ospitava solo ed esclusivamente preti o sacerdoti, e poi è stato ospite più volte del penitenziario di Basauri a Bilbao. Una volta perso il suo impiego come sacerdote operaio, perché la diocesi a un certo punto lo scaricò definitivamente, ha continuato a lavorare come carpentiere semplice. Ora me doy cuenta porque estamos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa. Anuncio con matita que asunto terminado. Nel 1975 ha fatto il suo ingresso nel sindacato rivoluzionario LAB, poi è stato candidato per le liste del partito di sinistra Euskadiko Ezkerra nelle elezioni generali del 1977. Nel 78 è entrato dentro Herri Batasuna, la coalizione elettorale indipendentista basca, è stato candidato sia Parlamento provinciale della Vizcaya sia alle elezioni generali spagnole del 79 e del 1982 ed è risultato eletto in tutte e due le occasioni, anche se visto che si era in periodo di boicottaggio da parte della sinistra indipendentista delle istituzioni statali spagnole, non ha mai partecipato ad alcuna sessione del Parlamento spagnolo. Poi altre cariche, soprattutto all'interno del municipio di Baracaldo e della giunta provinciale di Vizcaya, attualmente continua a vivere in quella di Baracaldo e, nonostante condizioni di salute non propriamente ottimali, porta avanti la sua attività politica e sociale. Intervistato la settimana scorsa dal quotidiano Gara in merito alla situazione delle condizioni di lavoro nel Paese Basco, risponde subito in maniera negativa. C'è una marcia indietro terribile, stiamo vivendo una situazione brutta, dura e dolorosa. C'è una quantità di gente incredibile, molta più di quella che si pensi, che sta soffrendo la precarietà, l'esclusione sociale, l'estrema povertà. Sono nascosti, però sono qui, perché non riescono a volte neanche a mettere insieme il pranzo con la cena, figurarsi ad avere una casa degna di questo nome. Viviamo in una situazione caotica, una situazione di estrema durezza, una marcia indietro terribile. Dalla firma del cosiddetto patto di Toledo a metà degli anni 90, che fu un accordo sindacale che corrispose a un attacco terribile ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, successivamente abbiamo assistito a una serie di tagli allo statuto dei lavoratori man mano che andavano avanti le successive cosiddette riforme sul lavoro. Es una cámara de gas. La situazione è in netto peggioramento e questo a causa del sistema capitalistico e del sistema delle banche. L'Europa dei mercati è quella che ordina e che comanda, ma sono i dirigenti politici di questo paese e degli altri paesi europei che obbediscono di fronte ai poteri forti. La situazione è terribile e credo che sia necessario che l'Europa dei mercati vada a fuoco affinché la classe operaia recuperi le sue posizioni. Tutte le riforme precedenti del mercato del lavoro hanno tagliato i diritti di lavoratori e lavoratrici, ma l'ultima del governo del Partito Popolare, che segue quella non riuscita del Partito Socialista, è probabilmente la peggiore. È così, il licenziamento è stato praticamente consentito liberamente da quando è stato redatto lo statuto dei lavoratori. Quando andavo a difendere lavoratori e lavoratrici, quando stavo lavorando nei cantieri, vedevo che i padroni potevano licenziare a proprio piacimento. Al principio avevo diritto a scegliere se tornare oppure no. Ora questo non è più possibile. Ogni giorno, ogni settimana, ogni mese è sempre peggio e ci vogliono spogliare della nostra dignità. Questo non può essere, bisogna rivoltarsi contro questi capitalisti che ci spogliano e ci lasciano nella povertà più assoluta. La zona della Marken Ischierda, quella dove vivo, dove ho lavorato e che è stata sempre la zona più industrializzata nel Paese Basco, si è convertita in una zona di servizi e non rimane quasi più nessun tipo di industria. È stato tutto smantellato, hanno fatto un vero e proprio deserto. Le grandi fabbriche Babcock, General Electric, Aurrera, ACV, la Naval, Euskalduna sono completamente sparite. Sono migliaia e migliaia di lavoratori e le lavoratrici che sono state abbandonate al proprio destino. Queste zone non sono state recuperate. Adesso la stessa cosa sta succedendo con altre imprese che, per esempio il caso di Iberdrola, obbligano i lavoratori maschi al licenziamento e le lavoratrici donne, se vogliono mantenere il proprio posto di lavoro, a trasferirsi fino a Barcellona. Hanno la più completa libertà di licenziamento. Siamo in un momento terribile e bisogna arrestarli, perlomeno bisogna ritornare in piedi e lottare affinché la classe lavoratrice risorga, perché è questo il principale valore di un popolo. Il livello di coscienza operaia è diminuito, certo, ma è diminuito perché i sindacati, soprattutto quelli di ambito statale e spagnolo, non hanno alcun senso della lotta, non hanno alcuna idea di prendere le piazze, le strade. Fanno manifestazioni molto ordinate, ma nella sola Marken Ischierda oggi ci sono 20.000 persone disoccupate, più di 40.000 hanno un lavoro precario, un lavoro che significa uno stipendio inferiore a 900 euro al mese, e oltretutto ci sono quasi 52.000 famiglie che soffrono situazioni di povertà o hanno mille difficoltà per arrivare a fine mese. I governanti non fanno nulla. Siamo passati da una società industriale a un'economia di servizi che però sta rovinando la maggioranza della popolazione della Marken Ischierda. Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo ribellarci, anche perché per esempio ci sono ancora grandi superfici e grandi opportunità. Ci sono imprese come Megapark, dove 1.350 persone lavorano, però con un salario inferiore del 30% rispetto a quello che dovrebbe essere per legge, e lo stesso accade con tanti grandi negozi che si sono impiantati in questa zona. È il caso di Ikea, che in questi giorni compie il suo 7° anniversario. Per impiantarsi qui nella Marca in Ischierda ha preso 130 milioni di euro di beneficio dal governo, però in un anno ha licenziato ben 42 persone, il 65% della sua forza lavoro lavora con contratti a tempo parziale con salari inferiori a 500 euro. Come è stato possibile, chiede l'intervistatore a Perico, passare da una Marca in Ischierda che era la punta di diamante dell'industrializzazione del Paese Basco a una crisi così totale? Perico risponde: è stato quando Felipe González, che è stato premier socialista negli anni 80, portò avanti il progetto di riconversione industriale di tutta l'area. L'Europa aveva deciso che alcune imprese non facevano abbastanza profitti e che era meglio portarle da qualche altra parte. C'è stata un'enorme lotta operaia nelle piazze, non solo la più grande, quella che ricordate ancora sui libri di scuola, è sicuramente quella dei cantieri navali Euskalduna. Lì la classe lavoratrice si è posta in piedi, è stata combattiva, si è messa a muso duro davanti la polizia. È stata una lotta esemplare. Altrove ciò è successo in maniera minore, ma sempre comunque tutte le imprese di questo tipo sono andate via. Continuiamo l'intervista con Perico. Gli chiede ancora l'intervistatore, nel corso di questo lungo pezzo, ancora riguardo la storia delle lotte operaie sulla riva sinistra della ria di Bilbao. Quest'anno, fra le altre cose, gli chiede: sono 20 anni dalla cosiddetta marcia del ferro, una marcia degli operai e delle operaie contro lo smantellamento degli altiforni. Questo è assolutamente vero, risponde Perico. Quando vai a Sestà, un altro comune nei pressi di Bilbao e di Baracaldo, e vedi la Piazza Rossa, quella dove ci riunivamo con i lavoratori e le lavoratrici, dove si facevano le manifestazioni più grandi, si lanciavano le parole d'ordine per gli scioperi. Oggi quella piazza è diventata un luogo di shopping. lì si facevano tante riunioni in piazza, si davano i volantini, si pianificavano le lotte, la chiamavamo la piccola mosca della riva sinistra, ma lo stesso succedeva anche da tante altre parti, me lo ricordo io, se lo ricorda anche mio padre che era minatore. Tutte queste vestigia sono completamente sparite, hanno voluto distruggere anche la memoria. A volte mi vergogno io stesso di quello che è potuto succedere. Di quei tempi mi ricordo lo sfruttamento che soffrivano i lavoratori e che poi ho sofferto anch'io, e la lotta. Mi ricordo di mio padre che mi diceva che nel corso dell'estate lavoravano fino a 13 ore al giorno perché approfittavano della luce del sole. Era diventato minatore a 17 anni, minatore specializzato, perché già lavorava per incarichi minori da quando aveva solo 13 anni. Hanno voluto che tutta la memoria di quei luoghi sparisse, hanno messo addirittura un campo da golf dove c'erano gli antiforni, e del resto erano luoghi non soltanto di sofferenza ma anche di tante manifestazioni, tanti cortei, tante lotte. Lì è passata Dolores Ibarruri, la passionaria che ha cominciato il suo lavoro a 13 anni, a 15 anni era già una delle militanti più attive. Del resto il suo compagno era un minatore come mio padre, erano storie assolutamente comuni. Aburrido en tantas noches de vacian. Bisogna ritornare a quello spirito, bisogna avere più presenza nelle strade, bisogna avere l'orgoglio che oggi si respira in Grecia, per esempio. Ognuno deve fare quello che può, però è fondamentale vedersi nelle strade. Bisogna avere presenza anche fisica, bisogna denunciare in gruppi grandi, in gruppi piccoli, anche singolarmente. Bisogna stare lì, bisogna fare una denuncia forte. Bisogna essere combattivi perché stanno vincendo quella che io chiamo la battaglia per la passività. I sindacati, specialmente i sindacati statali, non sono altro che una corda di trasmissione dei governi, perché sono i governi direttamente che li finanziano e questi sono ai suoi ordini. Ci sono motivi dunque per scendere in piazza, secondo lei, nello sciopero che ci sarà il prossimo 29 marzo? Ci sarà un grande sciopero generale in tutto il Paese Basco proprio contro la riforma del mercato del lavoro. Ci sono tantissimi motivi, risponde Perico. Dobbiamo uscire dalle nostre case e lottare. Se non usciamo adesso non riusciremo più a farlo. Il sistema ci sta attanagliando, ci impedisce di respirare. Noi dobbiamo recuperare, dobbiamo reimparare a respirare, perché soltanto con la lotta si può respirare. I grandi poteri hanno tutto in mano, hanno ogni mezzo per distrarci con la televisione, con il calcio, con tutte queste cose. Il dittatore Francisco Franco aveva ordinato che ogni primo di maggio al mezzogiorno in tutte le città più importanti dello Stato spagnolo venissero effettuate le corride dei tori, proprio per distrarre la popolazione. Si tratta di distrazione. Noi non possiamo cadere nel gioco dei poteri forti e dei governi venduti al capitalismo più feroce. E quindi, per quanto mi riguarda, anch'io, nonostante la salute non sia più quella di un tempo, continuo per quanto possibile le mie attività, sono interno al collettivo Berrio Choac, che occupa le strade un giorno sì e l'altro pure, sono presente all'interno delle assemblee dei disoccupati della Marca in Ischierda, si fa un lavoro sociale importante, non bisogna restarsene a casa, perché quelli che ci lasciano nella povertà, ci lasciano senza diritti, vogliono proprio questo, vogliono che non si veda il disastro sociale che stanno provocando e vogliono che noi rimaniamo a casa. Invece dobbiamo fare tutto il contrario, dobbiamo occupare per esempio le banche, gli stabilimenti del Banco di Bilbao Vizcaya, per dire che non vogliamo morire congelati dai tagli, dobbiamo denunciare che la riforma del lavoro è un colpo di Stato contro i diritti sociali e dei lavoratori e delle lavoratrici.